Te l'avevo detto che capitava anche a noi. Dicono che il nome è crisi dei tre anni e poi sembra faccia bene, sai, serve a far riflettere. Con te io ci riproverei, ma è presto per decidere. E ora cosa siamo noi? Voci in un telefono. E mentre parliamo qui, accanto a me ti immagino. A volte non so più chi sei, né che lineamenti hai. Chi può dire come andrà? L'ho già chiesto al cuore, non lo sa. Come si fa a dirsi addio, se proprio adesso, amore mio, io penso a te, tu pensi a me, che fine strana è questa qua. Come si fa a dare il via a questa lunga anestesia che ci addormenta insieme ma da soli, poi ci sveglierà. E ora cosa siamo dentro noi? Solo un fiume di malinconia. Quanto amore ancora ti darei, ma quanto amore abbiamo buttato via. Ed io per non soffrire più strappo la fotografia che è finita, dillo tu, ma il coraggio in fondo chi ce l'ha? Addio e a ritornare ognuno suo, dopo che insieme abbiamo vissuto solo di felicità. Come si fa a non dire sì per poi spaccarsi in due così, io qua e tu là, davanti a due finestre, in mezzo a due città diverse. Un giorno ci si lascia noi.